Bene, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a questa iniziativa, a questa presentazione del libro. Siamo in compagnia di Adel Jabbar, curatore del libro Paesaggi migratori in Alto Adige, nuovi volti e vecchi luoghi, che questa sera sarà in dialogo con lo storico Giorgio Mezzalira. Andremo quindi ad approfondire quello che è un volume sull'identità, l'immigrazione all'interno del nostro contesto locale, territoriale, nella provincia di Bolzano. Un saluto a tutti i presenti e un caro saluto anche da parte della nostra direttrice, la direttrice della biblioteca, la dottoressa Valeria Trevisan, che questa sera non può purtroppo essere presente per tutta una serie di riunioni, ma che vi dà sicuramente il suo benvenuto e vi ringrazia per questa presenza bella e intensa. Prima di procedere con la presentazione del libro, colgo l'occasione per ricordarvi brevemente gli appuntamenti della nostra biblioteca, che sono sempre molto presenti, insomma, siamo qui sempre tutti martedì con le nostre presentazioni di libri. Ci troviamo infatti la prossima settimana con l'autrice Loretta Corradini, con L'amore c'è, a piccoli passi verso una possibile forma di guarigione di libertà. Sarà in dialogo con il moderatore Stefano Dell'Antonio e avremo le letture di Annika Schluderbacher, quindi comunque tutto un tema che riguarda la resilienza e anche la trasformazione del dolore in qualcosa di bello. Ci ritroveremo poi il 24 con il giornalista e docente Marco Pugliese, invece qui cambiamo totalmente tema perché andremo ad indagare l'industria italiana nel XX e XXI secolo, quindi con, diciamo, un focus su quello che è il Made in Italy. Vi ricordo poi che mensilmente abbiamo anche il nostro gruppo di lettura, si riunirà il giorno mercoledì 18. E si tratta di un gruppo di lettura di narrativa locale, quindi prenderà principalmente in considerazione saggi e romanzi del nostro territorio e anche questa sarà un'occasione per discuterne e parlarne insieme. Ringrazio tutti e un saluto anche all'assessore comunale alla cultura, la nostra Chiara Rabbini, e non mi resta che augurare una buona serata a voi e una buona presentazione. Grazie. Grazie, grazie dell'invito. Buonasera a tutte e a tutti. E devo dire che mi fa un grande piacere vedere questa sala così piena. Complimenti a Adel Jabbar, complimenti anche a Giorgio Mezzalira, a Adel Jabbar, a tutte le persone che hanno contribuito a questo libro, che devo dire conosco quasi tutte le persone che hanno dato il contributo scritto, perché ormai sono tanti anni che lavoriamo assieme sul territorio su questo tema, ormai sono veramente tanti anni. Io vorrei brevemente ricordare anche come ho conosciuto Adel Jabbar nell'ambito della cooperazione internazionale, perché il fenomeno migratorio è anche, sappiamo, legato a quello che succede nei paesi del sud del mondo, e quindi insieme avevamo organizzato anche tante iniziative per conoscere anche i motivi reali e uscire anche da questa visione un po' di pancia che viene sempre, approccio di pancia che viene un po' promosso anche dai media, per conoscere realmente le cause che poi promuovono i flussi migratori. Vorrei anche ricordare Alexander Langer, che è stato veramente uno tra i primi anche in Alto Adige a organizzare dei convegni nord-sud. Ricordo anche il convegno a Castelmareccio, pensarono i primi anni 80, e me lo conferma Giorgio Mezzalira, e questo è stato veramente un momento iniziale del territorio, e già allora Alex diceva le società saranno sempre più saranno sempre più multiculturali, e quindi dobbiamo attrezzarci, dobbiamo prepararci, perché dobbiamo gestire il fenomeno, un fenomeno come tanti altri. Io penso, ho sempre detto che la nostra provincia così eccellente in vari ambiti può esserlo altrettanto anche in questo. l'ho sempre creduto, purtroppo la forte volontà politica invece di spesso di non far andare le cose bene come potrebbero, proprio perché spesso la politica, i vari fronti politici hanno contrastato anche o bloccato proposte e evitato anche una gestione che poteva essere anche forse migliore. Però mi ritrovo, diciamo, in quello che ho letto dal libro, e quindi che sì, nel nostro territorio ci sono punti critici, lo sappiamo perché tutti noi che siamo qui in questa sala ci siamo spesso trovati intorno ai tavoli per cercare appunto di trovare soluzioni a queste problematiche che conosciamo bene, purtroppo. E, ecco, adesso ho perso il filo un attimo, però il fatto appunto della rete del territorio e di tutti voi qui presenti, veramente, perché ognuno di voi, come ha dimostrato in questo libro, ha dato un contributo enorme, lo ha dato anche con passione, perché la rete è fatta appunto di volontari, di associazioni, di mediatori culturali, di operatori che nel tempo sono diventati sempre più competenti e professionali. Veramente avete delle competenze maturate nel tempo, che spendete appunto anche nell'affrontare questo tema, e la politica appunto dovrebbe sempre di più ascoltare questa rete e andare nella direzione appunto che viene indicata, perché le soluzioni ci sono per migliorare. Ecco, adesso ho ripreso il filo, volevo dire, è vero che ci sono dei punti critici, ma appunto ci sono anche delle eccellenze, quindi sul territorio abbiamo sicuramente, grazie alla rete, dicevo, delle eccellenze, delle buone pratiche che si possono replicare. Io ricordo per esempio i progetti SPRAR che negli ultimi 5-7 anni ormai erano stati avviati sul territorio provinciale, che avevano portato a sfondare, diciamo, quel muro di paura che alcuni piccoli comuni della nostra provincia aveva, e appunto dimostrare che l'accoglienza e l'integrazione sono possibili. A Bolzano c'è una rete enorme di volontari, soprattutto di associazioni, di esperti, di esperte, e io voglio ringraziarle, proprio le ringrazio sempre, perché con loro si combatte anche un altro aspetto, che è quello della discriminazione, del razzismo, che purtroppo c'è sul nostro territorio, e penso che un libro come questo, e chiudo, possa contribuire anche a comunicare in maniera corretta dati, informazioni, a spiegare alla nostra cittadinanza, ai cittadini e giovani soprattutto, che l'inclusione è sicuramente la cosa migliore e più arricchente che può esserci sul nostro territorio. Quindi l'incontro di tutte le culture ci arricchisce reciprocamente, e non dobbiamo avere paura, e soprattutto non dobbiamo discriminare, non dobbiamo avere comportamenti razzisti e appunto discriminatori. Scusate, è stata un po' lunga forse, grazie a tutti e voi, grazie. Ognuno suo. Buon pomeriggio anche da parte mia. Io da semplice prefattore lo posso dire, lui no, da curatore, ma è un libro che si merita questa sala piena, e si merita anche un ampio pubblico di lettori e di interessati. In premessa a questo volume c'è una, come dire, un'annotazione che sembra banale, ma non lo è. Ed è una notazione cronologica. Sono circa 40 anni che, diciamo, le nuove ondate migratorie approdano sul nuovo continente. 40 anni. E sono 40 anni che parliamo di emergenza. Ora, quando Adele mi ha proposto di fare la premessa al volume, e mi ha spedito i saggi che lo dovevano comporre, me li sono letti, e il primo pensiero che mi è venuto leggendoli, poi li vedremo, magari li presenteremo forse un po' più puntualmente più avanti, comunque il primo pensiero che mi è venuto è che la difficoltà, o meglio, non era facile trovare una chiave che potesse dare il senso dei contenuti di questo volume. Cioè, come si fa sintesi di 40 anni di migrazione? E soprattutto, come si fa sintesi di 40 anni di migrazione se la chiave per capirli e per comprenderli è quella dell'emergenza, da cui ricadono tutte le politiche, quelle europee, che rimbalzano su quelle nazionali, che arrivano sugli enti locali, che arrivano sul territorio. Allora mi è venuta, e l'ho scritto anche in premessa, questa riflessione. Allora, l'assessore Rabini parlava prima di luci ed ombre del fenomeno. Ed è vero, ci sono luci ed ombre. Ci sono buone pratiche che sono venute avanti nonostante le politiche emergenziali, e ci sono tentativi mancati a causa delle politiche emergenziali. Quindi non siamo ancora riusciti a trovare una governance, come si dice, di un fenomeno che ormai dura da 40 anni, quasi mezzo secolo, che il nostro continente e di conseguenza tutti i territori sono interessati da questo fenomeno. 40 anni che hanno cambiato evidentemente la realtà, anche la nostra realtà locale. Faccio un piccolo esempio. Tutti conoscete il paese di Fortezza. Ebbene, a Fortezza c'è stato un calo demografico, è un piccolo carotaggio nella realtà provinciale, a partire dalla periferia, non quindi dai grandi centri. Fortezza ha conosciuto un calo demografico, grosso modo, tra gli anni 80 e 90, in quel decennio, è scesa sotto i 1000 abitanti, ma fortemente sotto i 1000 abitanti, sfiorava gli 800 e i 900. Ebbene, con i nuovi cittadini, quindi i migrati, Fortezza è tornata sopra i 1000 abitanti. Oggi gli asili e le materne hanno una percentuale del 70, tra il 70 e il 100% di bambini, alunni, immigrati che le frequentano. Non è escluso che fra qualche decennio magari possa esprimere anche un sindaco, non Volkspartei magari, ma di un qualche paese al di là del Mediterraneo. Piccoli, ma credo calzanti esempi di come stia cambiando radicalmente la nostra realtà. E questo cambiamento, come dire, cozza contro le politiche che anche qui noi sul territorio mettiamo in atto per cercare di risolvere i problemi. Problemi che, va detto, non sono semplici, sono assai complessi e vanno presi per la complessità che esprimono. Però evidentemente noi abbiamo delle chiavi, penso a livello territoriale, che ancora, come dire, risentono un po' del passato che abbiamo vissuto. Prendo il fatto di cronaca di queste ultime settimane, la classe speciale per gli immigrati delle Goethe. E a me, io quando ho letto questo articolo, a me è venuta quasi immediata l'analogia con le gabbie etniche di cui parlava Alex, cioè le cose divise. Noi, questa è una chiave che stiamo portando. Chiaro, non, fortunatamente non tutti la pensano così. Noi abbiamo una provincia molto ricca, un reddito pro capite alto, un livello di assistenza altrettanto alto. Abbiamo conosciuto in passato, va ricordato anche noi, al nostro piccolo fenomeno migratorio, penso alla cosiddetta italianizzazione che è proseguita anche nel secondo dopoguerra. Non dimentichiamo che il punto più profondo del conflitto cosiddetto etnico tra gli anni 50 e gli anni 60 aveva come cardine proprio la questione dell'immigrazione, l'immigrazione degli italiani. E si cercavano dei sistemi per chiuderla, per tamponare. Ecco, siamo riusciti fortunatamente a superare questo, e in questo senso il nuovo statuto di autonomia, con le clausole del bilinguismo e della proporzionale, ha fatto da filtro un po' anche al fenomeno migratorio. Però ecco, nonostante tutta questa storia, noi ancora oggi nel territorio facciamo fatica come dire, a mettere, a far tesoro di questa, di questo passato e aprirci a processi di integrazione che sono fondamentali. Fondamentali perché noi abbiamo a che fare con un 10% oggi di popolazione che ha molto spesso un alto livello di istruzione e ha anche una grande propensione all'integrazione. Allora, questi due elementi favorirebbero, se gestiti o se governati in maniera intelligente, anche probabilmente sarebbero anche di ricchezza per il cosiddetto capitale sociale della nostra società, che è il tasso di fiducia, le reti sociali, la solidarietà, ciò che tiene unita una società che necessariamente è sempre più multiculturale e multietnica. Adele. Ho il mio microfono. Ah, ok. Bene, buon pomeriggio. Grazie di questa partecipazione di persone che in tutti questi anni mi sono state vicine fondamentalmente, da cui ho imparato tanto e ho ascoltato tanto e poi abbiamo camminato insieme alla ricerca di nuovi orizzonti. E grazie a tutte le autrici e a tutti gli autori che hanno, con notevole disponibilità, mi hanno detto sì, no? Per contribuire a questo libro. Se non fossero stati loro, questo libro non sarebbe nato. Per cui veramente chiedo a tutti voi di applaudire queste persone qua. Che... e quindi... sono persone provenienti da vari, luoghi geografici e da diverse, realtà statuali, con competenze diverse, con sensibilità particolare rispetto ai temi sociali. E quindi il libro, da questo punto di vista, è ricco di... ricco di sensibilità, al di là della ricchezza, intellettuale, c'è una ricchezza affettiva, una sensibilità che viene trasmessa dalla pagina di questo libro. E io ci tenevo molto. Questo è il secondo libro, perché l'anno scorso, insieme ad alcuni colleghi a livello nazionale, abbiamo cercato di fare un libro, abbiamo detto che vorremmo fare un libro che sia un prodotto del nostro rapporto, degli affetti che portiamo presso, no? E quindi il libro Paesaggi interculturali, le terre di mezzo che c'è lì, è stato veramente un frutto di questo rapporto affettivo tra le persone. E questo in parte, anche a livello locale, è un rapporto di persone che io con loro ho coltivato in tutti questi anni. Alcuni magari anche non conosco, perché alcuni non conosco, mi sono stati segnalati da una grande amica e grande ricercatrice, Roberta Medda. Mi ha segnalato, quando ho chiamato lei, mi consultavo, perché io con tutte le persone che ho contattato mi sono consultato naturalmente sull'idea che ho in mente, se è fattibile, se è realizzabile, se loro fossero disponibili. E quindi Roberta Medda è stata assolutamente, da questo punto di vista, anche un'importante trasmettitrice, no? Di rapporti, di conoscenza. E così, naturalmente, ringrazio Giorgio Mezzadira, perché mi sono rivolto a lui, Giorgio, tu saresti disponibile? Perché io Giorgio l'ho conosciuto e lui non sapeva. Perché quando ho cominciato a venire a Trento, a Bolzano, per occuparmi dell'immigrazione qua a Bolzano, ho letto quello che ha scritto Giorgio sull'immigrazione del sud Italia, quindi lo conoscevo, allora ho detto potrebbe sicuramente essere la persona giusta, perché una sensibilità, una conoscenza rispetto al tema dell'immigrazione servirebbe. Quindi mi sono rotulato no? Verso Giorgio, Giorgio naturalmente con questo bellissimo sorriso mi ha detto: Adel, va bene. Allora a quel punto io poi ho cominciato, insomma, elaborare, perché l'elaborazione di testi, la trasmissione, poi il nostro grande regista è stato Giuliano Geri, che è stato un pilastro formidabile. Naturalmente anche sono arrivato a proporre il libro ad Aldo Mazza, che questi giorni è in Croazia, non poteva venire qua, e nel momento di passaggio di Alfabeta verso Rezia. Quindi ho conosciuto anche Thomas Kager, che ringrazio per aver accettato senza particolari no? problemi editoriali, come possono succedere spesso, fino adesso. E quindi, diciamo, questo libro nasce da queste rete di relazioni. No? Quindi il libro è proprio per... nato anche con l'idea di rispondere ad un'esigenza, perché in tutti questi anni molte persone, fra cui anch'io, abbiamo fatto molta ricerca qua a De Bolzano, però i rapporti di ricerca, come si sa, rimangono in luoghi molto particolari e forse vengono, no, consultati dagli addetti al lavoro, però siccome i rapporti di ricerca si producono continuamente, spesso si dimenticano quelli che magari sono usciti prima, no? Quindi c'è una duratura, un'età molto fragile, insomma, di rapporti di ricerca, perché i tempi cambiano, le esigenze cambiano. E quindi io ho pensato che come riuscire a attingere questi saperi della ricerca, ma anche l'esperienza, perché ci sono ricchissime esperienze che sono a Bolzano, quelle di cui Roberta Medde giustamente ha sottolineato, questo è il basso, no? Partire dal basso, la rete, ha elencato una serie anche di nomi di associazioni. E allora tutto questo patrimonio andrebbe socializzato, no? Andrebbe condiviso con, no? Un libro accessibile, fruibile, un libro che non sia particolarmente così accademico, però neanche così divulgativo, no? Mantiene una sua dignità, anche perché le persone che hanno scritto in questo libro sono tutte persone che hanno alle spalle grande esperienza e grande competenza. Quindi un libro che ha mantenuto una qualità, no, in termini di ragionamenti, ma anche su cui ho insistito molto, che sia un linguaggio discorsivo che sia accessibile alle persone che non hanno dimestichezze con il tema, o magari anche hanno paura di trattare questo tema qua. Quindi l'emigrazione è un gatto da pelare, giustamente come diceva Chiara, no? È un gatto da pelare, una patata bollente si dice in italiano, quindi ognuno cerca di, no? E di rilasciarla agli altri, no? Di rimandarla ad altri tempi. E quindi, però è un tema su cui è necessario, direi è obbligatorio, ragionare seriamente, perché poi si parla dell'immigrazione, ma parlare è una cosa, dibattere, confrontarsi è un'altra cosa, richiede altri strumenti e altri sensi anche di responsabilità. E quindi questo libro qua nasce per anche, no, dare degli strumenti per affrontare cose, no? Da 40 anni noi viviamo in un'emergenza. Nel tuo Giorgio, naturalmente io lo ringrazio perché ha fatto una prefazione perfetta, no? No? Bellissima. Avrei dovuto farlo io, e poi dopo, siccome lui ha interpretato le esigenze in modo molto autonomo e libero, è venuta fuori veramente una prefazione assolutamente ha azzeccato tutti i temi, no? Ha riuscito a descrivere tutti i temi, i nodi centrali di vari testi. E quindi il libro è per rispondere, nato per rispondere, socializzare, perché questo è anche il primo libro in pratica in provincia di Bolzano che mette insieme diverse esperienze, diversi autori, diverse autrici, no? E fa un'esplorazione al fine di offrire proprio degli strumenti per dire: 40 anni di emergenza, quando finisce questa emergenza? Forse è diventata la politica, No, la politica dell'emergenza è diventata una risposta quasi permanente, no? Scusatemi l'ossimoro, no? È diventato un, no? Cioè, con questo 10% della popolazione, che ne facciamo? Come gestire questo nuovo multilinguismo? Come gestiamo, come rendere le persone interpreti di un plurilinguismo efficace? E di come creare e mantenere una coesione sociale, come rendere le persone partecipi, no? E su questo naturalmente ci sono molte indicazioni in libri, nel saggio di Roberta, nel saggio di Verena, del saggio, quasi tutti i saggi di questo libro hanno trattato il tema come rendere le persone partecipi, no? Naturalmente in diversi contesti, fra cui c'è un testo importante sul tema della scuola, uh-huh, che ha scritto qua la collega Barbara Gremeni, molto importante, che ha preso in rassegna una serie di nodi all'interno del mondo della scuola. E quindi c'è questo fatto, come dicono i sociologi, fatto sociale totale. C'è un dato sociale, no? Che sta cambiando radicalmente della società, quindi non è più giustificabile e non volerlo vedere, certo, no? E non voler tenere conto delle cose, perché poi semplicemente le cose vanno, no? Infatti noi continuiamo a dire come rendere le persone partecipi, però poi le persone, grazie alle relazioni che instaurano ogni giorno, sono partecipi, però a volte non si vuol vedere questa partecipazione di fatto nei vari luoghi della vita, nel lavoro, nella scuola, negli spazi sociali, nel mondo delle sport, nella musica. Quindi c'è una partecipazione di fatto, ma perché non arricchire questa partecipazione di fatto con anche delle indicazioni a livello politico? Certo, visto che tu hai adesso esaminato alcuni aspetti del libro, io credo magari può essere interessante anche per il pubblico avere un'idea di come è articolato il volume. C'è, come ricordava prima Adele, c'è una parte, una parte scientifica, cioè è una scritta in maniera molto divulgativa, scritta da Roberta Medda dell'EURAC, EURAC che va ricordato ha un dipartimento, un interdipartimento mi pare, sulla migrazione che rilascia dossier, fa ricerca, quindi sempre molto presente, però come dire, è di nicchia un po' quello che diceva Adele, sono dossier, analisi che spesso rimangono nella cerchia degli interessati e dei cosiddetti esperti. Comunque ecco, c'è una parte che riguarda un po' diciamo lo scenario della migrazione, con un focus in Alto Adige e anche un'analisi sui comuni e anche cosa significa operare nell'ambito dell'emigrazione dalla parte degli sportelli, dell'assistenza e dell'aiuto. Poi c'è una parte seconda, sono i luoghi e la partecipazione, altro aspetto molto importante, cioè la partecipazione civica e politica. E c'è, secondo me, un bel intervento anche sulla questione delle consulte, no? Che sono, dice chi l'ha scritto, Sofia Schoenthaler, sì, che parla delle consulte, che dice sono un primo importante passo verso l'integrazione, ma il fatto che siano organi consultivi a volte non sempre vengono presi in considerazione le deliberazioni di questi organi e quindi questo può ingenerare come dire, un po' di distanza dalle stesse istituzioni, frustrazioni, eccetera. Quindi diciamo che questo aspetto, io credo, apro piccola parentesi, se c'è un merito di questo libro è proprio quello di aver non abbellito né ingigantito i problemi, aver cercato, come dire, la giusta misura nel presentare gli aspetti positivi e negativi di quello che oggi definiamo la politica di integrazione, che è una parola grossa. Poi una parte terza che riguarda l'inclusione e la convivenza, con anche tutte le iniziative che partono dal basso, l'ordine interculturale, quindi c'è anche questa vetrina aperta su questa, come dire, vivacità anche del mondo della solidarietà e del volontariato. E poi c'è la parte quarta che riguarda la scuola e le nuove generazioni, e su cui magari poi ritorneremo con Adele, e poi c'è un appendice con la testimonianza di Salvatore Falcomatà, che è presente in sala, lo salutiamo, anche lui figlio di famiglia emigrata negli anni 50-60 dal sud, e però poi da adulto solidale e pronto a sostenere gli immigrati che avevano bisogno, quindi molto presente nel sociale. Ecco, a me, per tornare un po' al tema, al volume, a me è piaciuto molto, Adele, il titolo che tu hai dato, La migrazione, una costante attualità. Chiara Rabbini ricordava prima Alexander Langer, ed è sempre Langer che dice a un certo punto che la migrazione non sarà un'eccezione ma diventerà sempre più la regola. A me questo titolo è piaciuto tantissimo, una costante attualità. Lascio a te col tuo microfono. Sì. Io ogni tanto ho delle visioni, quindi i titoli mi vengono in certi momenti della notte, e poi dopo, quando mi sveglio al mattino, mi trovo in difficoltà di come renderli, no? spiegabili, no? Questi titoli. È una costante attualità perché sapete che io sono nato nelle terre mesopotamiche. Sapete o no? Allora, la terra mesopotamica è stata il teatro di racconti, si dice, no? Di racconti cosiddetti biblici. E lì l'umanità è sempre stata in cammino tra profughi, rifugiati, no? Gente alla ricerca di esilio, gente che è alla ricerca di sopravvivere. No? Tutti i profeti sono stati in pratica, no? Perseguitati. E quindi, allora, e questo nella mia memoria naturalmente presente. Allora, l'emigrazione, una costante attualità, anche un attingere della mia memoria storica, che alla fine la nostra umanità, come dice grande sociologo, ormai non è tra di noi del lavoro, Gallo, quando diceva che alla fine nella storia gli esseri umani, donne e uomini, non hanno fatto altro che incamminarsi verso l'opportunità. No? Questa opportunità poi dopo può essere l'immagine delle terre promesse, può essere, come dice Franco Cassano, un altro sociologo meraviglioso pugliese che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa, e dice le persone tutte partono, quelli che pensano all'immigrazione, di approdare nelle terre promessa. Però quando arrivano a questa terra, le trovano, non è più di tanta promessa, anzi, trovano il Bronx. Trovano il Bronx, e il Bronx vuol dire la difficoltà, la fatica, la frustrazione, le delusioni, le discriminazioni, il venire meno della rete sociale, il venire meno delle competenze linguistiche. E quindi l'emigrazione pone a questi interpreti che vogliono raggiungere le terre promesse, pone delle domande molto spigolose. E queste domande spigolose spesso sospendono l'agire, no? di questo segmento sociale. Una fase lunga rimane una fase di silenzio, dell'attesa, una fase di sospensione. E cercavo di farti ragionare. Sul titolo. Esatto. Quindi il titolo, vedete, quando ho detto che quando io do i titoli poi cerco di renderli spiegabili, questa è una prova. Allora, quindi a volte ci interroghiamo su cosa già vissuta, no? Già conosciuta della nostra umanità, Io mi è capitato nel mio percorso da sociologo di essere invitato dai sindacati, da partiti, e mi chiedono cosa facciamo di fronte alla presenza di queste persone. Ma io un giorno veramente sono andato in giro io in Europa a vedere cosa si fa in Svezia, in Svizzera, non so, in altri luoghi, in Francia, in Inghilterra. Allora io ho visto in molti luoghi c'erano la presenza di sindacati patronati italiani, no? ACLI c'è il suo patronato, naturalmente anche organizzazioni ecclesiali, CGL, CISL. Scusate, ma chiedete a me, che sono l'altro giorno catapultato qua, no? Cosa possiamo fare? No? E c'è tutto questo bagaglio di conoscenze, di competenza, come non ci fosse. Come del resto, nella tua prefazione, tu tiri fuori, prima della polemica ultima sulle classi speciali, tu accendi criticamente questo nella tua prefazione. Cioè, vuol dire, in una realtà anche come questa, cioè ancora pensate che ci stiamo domandando se la classe riservata ad un gruppo sia la giusta ricetta o il giusto rimedio. No? Dopo lunga esperienza, vuole dire, di una provincia che si è interrogata sul, no, il multiculturalismo del territorio, il pluralismo della linguistica delle persone. Per cui a volte mi sembra che ci poniamo delle domande, no? Quando non ci vuole molto per attingere da una certa esperienza storica per trovare dei rimedi, delle risposte. Però, come dice Gramsci, la storia è un grande insegnamento, però purtroppo non ha allievi. Sì, diciamo che questo tema che tu hai adesso citato, cioè della difficoltà della nostra società locale, con tutto il bagaglio che ha l'attenzione all'uguaglianza, alle minoranze, ai diritti, eccetera, faccio ancora molta fatica a, come dire, digerire o trovare la chiave per riuscire a governare questo fenomeno. Anzi, l'impressione è che, come dire, la presenza degli immigrati sembra disturbare l'equilibrio faticosamente ricercato tra i tre gruppi linguistici e forse adesso forse trovato, però gli immigrati sono un elemento di disturbo. E quello che veniva fuori anche a proposito di uguaglianze e di disuguaglianze da una bella ricerca nel 2015 sulla differenziazione etnica e frammentazione sociale, qualcosa di simile, in cui c'era un grande capitolo dedicato proprio agli immigrati e in cui veniva fuori con assoluta chiarezza quali fossero le disuguaglianze che queste persone si trovano a vivere in questa nostra provincia. Era una ricerca che si spingeva molto in là anche nelle proiezioni, immaginava che nel 2030 saremmo arrivati al 19% di immigrati, ovviamente non ci arriveremo, però la questione delle disuguaglianze c'è, persiste ed è anche testimoniata, diciamo, da questo volume. Penso solo al capitolo relativo alla casa. Vabbè, chiaro. No? O semplicemente anche, diciamo, al gradino sociale che occupano gli immigrati. E poi va detto anche, diciamo, c'è un'opinione comune, forse qui nella nostra provincia, in cui siamo abituati a ragionare molto più per gruppi che non per singoli, c'è anche questa idea, insomma, che gli immigrati siano tutta un'unica grande classe, per cui noi possiamo fare una classe di immigrati, non ricordando magari che abbiamo in provincia 136 nazionalità diverse. Allora voglio vedere l'insegnante come si muove. No? Quindi ecco, tutte queste queste questioni ci fanno capire la complessità del problema. Allora, caro Giorgio, il migrante quanto straniero rappresenta una turbativa, No? Questa è la sociologia, ci ha pensato su questa cosa qua. Rappresenta una turbativa, perché entra in un contesto e questa entrata nel nuovo contesto mette in discussione la mappa cognitiva delle persone che hanno strutturato una mappa cognitiva in base alla propria esperienza storica. E quindi l'arrivo dell'altro, io mi ricordo quando alla prima scuola hanno cominciato a chiamarmi qua e chiedermi di come facciamo con i bambini, con gli alunni piccoli che vengono da fuori. E io trovavo gli insegnanti, intanto c'era una grande sensibilità, grande anche creatività. Mi chiedevano, perché effettivamente io mi mettevo nei panni degli insegnanti. Mi mettevo nei panni degli insegnanti perché l'insegnante per 10-20 anni magari si è abituato a comportarsi in un certo modo dentro la propria classe. E gli arriva un piccolino così, no? Nella classe, tra 20-23, no? Uno o due, che le rendono, no? La relazione poco fluida. Quindi l'insegnante si spaventa, no? Si spaventa, cioè viene paradossalmente sospesa la propria competenza, no? Perché nel momento che con l'altro non c'è una comunicazione fluida, la competenza dell'insegnante viene meno. Quindi questo naturalmente, soprattutto negli adulti, noi abbiamo bisogno di certezze, no? No? E quando invece un altro che entra nel mio contesto e mi produce l'incertezza che ho costruito poi nel giro di anni, naturalmente non è facile da gestire. Allora, quindi io dico, la gestione dell'immigrazione richiede intanto la consapevolezza. Questa ho fatto un'introduzione breve di didascalica intorno, perché leggendo un po' i vari testi ho cercato di fare qualche cenno storico, qualche cenno rispetto ai cambiamenti che produce l'immigrazione, il profilo del migrante. E quindi una breve piccola strategia per agire, e soprattutto l'importanza di una memoria plurale, no? Che è capace di attingere, no? Cioè di non uscire dal proprio, no? Gabbie. Complessissima sta cosa. Molto complessa la memoria plurale. La memoria plurale però è necessaria. Se io insegno, scusate, apro parentesi, se io insegno la storia, perché mi è capitato di andare, ero ancora all'università a Trento, alcuni insegnanti erano già, sto parlando degli anni 80, venivano degli insegnanti a chiederci, chiedevano se sono studenti stranieri. Questi insegnanti ci chiamavano nella loro scuola, no? Quindi erano già, diciamo, profetici da questo punto di vista, e ci chiamavano in base alla nostra competenza andare a fare una lezione con gli studenti della propria classe. E mi è capitato, quindi io, sulla storia, quindi mi chiamavano per gli aspetti così storici, culturali. Leggevo i libri di scuola, vedevo che, per esempio, spiegando l'Europa, cos'è l'Europa? Allora, sempre trovavo le tre matrici dell'Europa: cristianesimo, Grecia e Roma. Da com'è qua? Un monopolio? Scusa, io vengo dall'altra parte del mondo. Roma c'era, la Grecia c'era, e poi Gesù Cristo l'abbiamo inventato noi, scusate. No? Cioè, no? E quindi questa di, no? Ridurre la vastità, no? Del camminare degli esseri umani, del sapere, e nazionalizzarli o localizzarli è antistorico, non corrisponde alla realtà, non risponde alle dinamiche. Quindi, per cui, se io attingo da una memoria plurale, vedo anche l'immigrazione in altre ottiche. Se io parto dall'idea che io sono, allora io sono, stai con il tuo canederlo, no? E allora, no? Col strangolo a preti, cioè, no? Cioè vuole dire, cioè questa no? Questa io sono in confronto dell'altro, del diverso, capisco, è una necessità psicologica, perché tutti abbiamo bisogno di certezza, di definirci rispetto all'altro. Ma se io mi definisco in termini plurali, vado a tingere questa memoria plurale, è una cosa. Un'altra, quando io mi metto in trincea e guardo l'altro naturalmente come una minaccia, no? Quindi l'altro come una minaccia o l'altro come qualcosa, è turbativo, però fa parte della dinamica della storia. Allora, sto dilungando forse? Sì, no. Perché? No, se riusciamo a stringere un po' così abbiamo ancora... Io sono mesopotamico, sono nato nella città delle mille e una notte, per cui... Le storie non finiscono. No, se riusciamo un po' a stringere così poi abbiamo ancora magari una battuta e poi lasciamo se ci sono i commenti. Chiaro. Sì. No, mentre parlavi, ripensando un po' al volume, l'impressione che si ha leggendo il volume è che di fronte a tutti i problemi che sono uno accanto all'altro, anzi diremmo meglio uno collegato all'altro, cioè l'idea che uno si fa è che senza un approccio sistemico non c'è processo di integrazione. Questo vuol dire che sicuramente serve che dall'alto, cioè i decisori, mettano in campo delle politiche in questa direzione, ma è altrettanto importante che credo che a livello territoriale si possano sviluppare comunità. Penso alla comunità educante per la scuola, cioè non solo la scuola e la classe, ma anche la famiglia, il territorio. Penso a questo. Cioè, tu lo vedi possibile? È un processo in atto? Oppure siamo ancora molto lontani? Perché questo evidentemente va in ordine a quello che dicevi, che non basta che sia l'immigrato a cambiare, devi cambiare anche tu la tua prospettiva. Vabbè, certo. Cioè, questo è uno dei classici fenomeni cosiddetti performativi. Cambia uno, ma deve cambiare anche l'altro. Infatti, questo avviene. Cioè, realmente, io nella presentazione, perché io nel testo ho scritto una presentazione e poi un'introduzione. La presentazione ho scritto questa cosa qua citando il giornalista Massimiliano Boschi, che ha scritto dei testi interessanti, una serie di inchieste sui cambiamenti che avvengono nel territorio. E quindi l'essere umani quando entrano in una relazione cambiano entrambi. Cioè questo fa parte della storia, no? Le relazioni cambiano le persone. La relazione cambia le persone. Io poi infatti nella cosa cito oggi anche banalmente il cibo in tutti questi anni. No? Del kebab, al sushi, al bouquet e non so che cose, entrate nel gergo, no? Entrano a nuovi gusti, entrano a nuovi colori, entrano a nuove dimensioni, no? Anche con il cibo, no? L'attenzione, insomma, vuole dire di attingere della musica altrui, no? E del resto poi questa è la storia, no? La storia è questa, la storia è un insieme di scambi, di connessioni. La storia dell'essere umano non è mai stata, no? Storia di luoghi separati. No? Cioè noi, il problema è che nel 96 ci siamo lasciati condizionare delle scontri delle civiltà, no? Di Huntington ha scritto questo libro nel 96, credo, immaginando il mondo come ci fossero delle scatole territoriali, in ogni scatola dove c'è una cultura, e per definizione questa cultura sono inconciliabili. Ma qual è la cultura che sta dentro un contenitore, quando gli esseri umani non hanno fatto altro che incamminarsi, scambiando tutto? Per cui noi siamo il prodotto di una dinamica storica lunghissima, di processi. Questi processi continuano ad andare avanti. Cioè io se oggi vado, i posti più democratici che oggi abbiamo, e più multiculturali, chiamiamolo così, e più inclusivi, utilizziamo le terminologie che tutte sono cose che richiedono dell'aggiustamento sono i centri commerciali. Quelli che vengono a volte anche, no, spesso, come dire, demonizzati, ma oggi sono insieme alla scuola, la scuola pubblica, è un luogo pubblico che tutti possono andare a studiare. Non abbiamo molti luoghi, nel nostro territorio. La scuola, e poi faccio un salto, vado al centro commerciale. Questi sono i due luoghi che sono frequentati, no? Il centro commerciale è aperto, perché se uno va nei negozi del centro storico, spesso non è così accessibile a tutti. Già c'è un commesso tutto rigido lì, no? Il guarda delle, no? Che questo fa parte dello standard nostro o no, già ti crea un problema. Per cui, allora, il centro commerciale, no. Entra qualsiasi persona, in orari lunghissimi, l'estate fa fresco, l'inverno riscaldato, no? Ci sono delle panchine, pare aperte, i negozi come se fossero, no? Pubblici, no? Invece è un posto dove in pratica oggi avvengono molto degli incontri in questi luoghi. Quindi noi abbiamo bisogno oggi, per questo discorso dell'inserimento, cosa vuol dire inserirsi? Gli italiani meridionali che venivano dal sud negli anni dopo la seconda guerra, verso Piemonte, verso il Veneto, verso l'Emilia, arrivavano, guardate che le differenze linguistiche e culturali tra il meridionale degli anni 50 e il piemontese molto più larga rispetto alle persone straniere che oggi vengono dai luoghi distantissimi dell'America Latina o dell'Africa, vengono con una grande familiarità, perché queste persone sono tutti i prodotti delle grandi logiche coloniali. Cioè, dimentichiamo noi Cristoforo Colombo, che nel 1490 è andato, cosa fare, a scherzare? A raccontare barzellette? No? Vasco di Gama? No? Bartolomeo Diaz? Cosa sono andati? Magellano? Sono andati 500 anni di storie, di connessioni. Gli altri vengono sapendo lo spagnolo, sono stati evangelizzati, parlano lo spagnolo, e noi quando arrivano qua li trasformiamo in culturalmente diversi. Sì, un pochino, ma non tantissimo. No? Cioè, perché questa è una cosa, posso, io sono anche un po' ironia, provocatore, metto insieme così per svegliare, perché vedo qualcuno sta addormentato. Si sta addormentando. Cioè, l'occidentale medio, da una parte ha un forte immaginario coloniale, ve lo dico con molta franchezza. Appartiene al modello vincente, no? Il rappresentante dell'homo economicus. Lavorare, produrre, consumare e inquinare. Questo è il modello vincente, no? Il mondo. Allora, questo modello, l'occidentale medio si riconosce. Cioè, intimamente è il modello forte. Però dall'altra parte, stranamente, vuole le diversità culturali. Ci andiamo a insegnare agli altri cosa qua facciamo noi, no? Come siamo stati bravi, spesso, no? Si va in giro. E però poi vogliamo che siano, quando arrivano qua, devono essere protagonisti, cioè, come dire, vogliamo farli diventare animatori turistici, nel villaggio turistico, no? Che fanno cosettine, ci fanno mangiare loro mantiti, tipo, che si fanno i cosmetici, che ci pettinano come, insomma, cosettina così. Però, a condizione che non si instaura un rapporto dialettico di pensiero. Questo spaventa. La categoria di riferimento di pensiero deve essere comunque nostra. Gli altri devono starci dentro. Questo è quello che per cui i processi, caro Giorgio, quello che tu nella tua bellissima prefazione, che dice dobbiamo cambiare prospettive, anche qui tornare a prendere in mano la categoria con cui noi guardiamo il mondo. Sono categorie coloniali. Punto. Questo va rivisto. con molta serietà. Allora, questo aiuta oggi, qual è la prospettiva? Perché la società sono un po' più, no? Queste contaminazioni, ibridazioni, chiamiamolo come si vuole. Cosa sarà, no? Il futuro? Cioè, io negli ultimi anni sto facendo dei laboratori di lavoro tra dei ragazzi, quest'anno con delle donne, artisti d'origine straniera. Fra cui c'è qua John, che ha fatto parte dell'edizione, prima edizione, su questo. John è un artista, un letterato, una persona assolutamente di grande sensibilità e intelligenza. Abbiamo fatto il lavoro insieme, lui si ricorda, no? Incontri, laboratori, con questi ragazzi, per farli venire fuori il loro sentire rispetto al multilinguismo del territorio e il plurilinguismo che loro hanno ormai incorporato e trasformarlo in opera d'arte. E quindi oggi è importante creare luoghi per rendere la persona partecipi su temi comuni. Questo è come cambiare le prospettive. La cambiare prospettive ci vogliono di laboratori, ci vogliono di luoghi narrativi nuovi. Una volta al Meridionale arrivava, come dicevo prima, a Torino o Milano, trovava i sindacati, movimenti sociali, movimenti politici, giusto, gli anni 50 e 60, veniva incluso dentro una società che era viva, partecipe. Oggi lo straniero, che nonostante culturalmente non è così distante come il Meridionale rispetto alle piemontese degli anni 50 o 60, oggi non ci sono i luoghi, il corpo intermedio sono deboli, i sindacati deboli, i gruppi sono deboli, le realtà sociali sono diventati, diciamo, luoghi di lavoro, no? Corrono dietro il bando è di qua, il bando è di là, scade il bando, rinnoviamo il bando, no? Quindi, ma il tema secondo me è proprio questo, noi ci mancano i corpi. Sì, ma il tema è proprio questo, di fronte ad una realtà come la nostra, sempre più frammentata, affrontare queste questioni diventa assai complicato. Ed è vero quello che dici, che sulla mancanza di luoghi sicuramente. Dobbiamo fare i conti però appunto con una società che è quella che abbiamo, purtroppo, e che risponde sostanzialmente chiudendo rispetto invece che aprire. C'è un aspetto demografico, una società anziana che si chiude. Certo. Luoghi di narrativi nuovi non ci sono. Certo. Gli stranieri dove vanno a partecipare? E poi il lavoro oggi degli stranieri è anche un lavoro molto frammentato, no? Marcellizzato. Non ne sono più la fabbrica di una volta dove creavano identità. Il Meridionale che arrivava a Torino o Milano o a Modena o Bologna entrava in fabbriche, no? Ha una nuova identità di essere operaio, aveva il dispaccio, no? Dove comprava il medico di base, come si chiama, lo dopo lavoro, la vacanza le organizzava delle imprese. Oggi dove? Queste cose dove? No? Quindi anche la frantumazione di posti di lavoro non crea identità. Questi sono problemi, certo. Sfide per la società, per la coesione sociale e per la democrazia. Certo. E se poi ci mettiamo anche la questione della cittadinanza, siamo a posto. Io direi che adesso manca un quarto d'ora all'ora Polizeistunde, no? Più o meno. Quindi se avete qualche domanda veloce da pubblico, prego. No, ma ti faccio ancora in sala. Allora ti dico una cosa, qui non c'è nessuna donna che abbia il velo. Cosa vuol dire? E io le incontro dove abito, la sera che si trovano fuori nella piazza con i bambini che giocano, gli uomini magari seduti da un'altra parte, le incontro lungo la via, vengono a casa mia a lavorare, ma c'è un tema molto profondo. Mentre il nostro Augias dice la crisi del cristianesimo o la fine del cristianesimo, allora io chiedo a Jabbar, ma c'è questo legame molto forte della religione, e parlo dei pakistani, parlo degli iracheni o iraniani, che io rispetto, tra l'altro devo dimostrare che io sono religiosa, che ho una fede per essere accettata da loro, perché altrimenti sarei atea e quindi non sarei accettata. Ma dico, secondo te, è un'altra cosa, ed è questa la paura sotterranea delle persone qualunque, semplici, ma se i musulmani diventano tanti, tu vedi una possibilità di evoluzione, di sviluppo, di apertura in questo contesto? Grazie. Aspetta. Vediamo, raccogliamo una ultima domanda o poche ultime domande, se ci sono ancora. Prego. Allora, io volevo invece solo fare un'osservazione. Tu prima, Abel, hai parlato del concetto di spirito colonialista che permea un po' tutti noi occidentali. Io direi più che spirito colonialista, questo spirito è eurocentrico, di sentirci l'ombelico del mondo, e questo viene fuori da tutte le cose che noi diciamo e facciamo, perché anche solo quando noi parliamo di integrazione, la parola integrazione parte dal presupposto che gli altri si devono adeguare al 100% a noi, e si dimentica sempre che nell'incontro tutte e due le realtà, come dicevi tu, si modificano. Quindi se anche la scuola contribuisse a trasmettere questo spirito di precarietà, di modificazione, eccetera, facendo presente come tutte le culture si ibridano, mentre noi siamo rigidi, come dicevi tu e raccontavi il modo in cui si apprende il concetto di Europa, mentre noi siamo rigidi su un concetto unico, fisso, se anche la scuola aiutasse a trasmettere questo concetto di ibridazione, di incontro, di cambiamento, perché nella relazione tutto cambia, tutti e due i soggetti che si incontrano cambiano, allora sarebbe anche più facile il discorso dell'incontro e dell'accettazione. Questa è la mia osservazione. Grazie. Se c'è ancora qualcuno. Veloce, ma ho sentito bellissime cose e anche a un livello alto, chiamiamolo così. Il livello basso qual è? Il livello basso è quando le persone si incontrano senza parlare sugli autobus, è vero? E vedono che i posti sono tutti occupati. Oppure le persone che vanno al pronto soccorso e vedono che ci sono 70% di persone di altro colore. Credo che dovremmo occuparci anche del livello molto basso. Cioè là dove la brutta politica trova la sua forza, e quindi aspetti di disagio che non vanno semplicemente saltati o derisi o minimizzati. Forse il libro non può occuparsi di tutto, questo lo capisco. Grazie, grazie Adele. Grazie, grazie Fabio. C'è comunque nel libro, ti rispondo subito, c'è un bel capitolo di un medico che ha avuto esperienze, Tania, esatto. E parla proprio di questo, cioè della come dire, prima si parlava di comunità, cioè di come l'intervento su un bisogno non si esaurisce in questo caso nello specifico, ma ha bisogno di un contesto per essere, come dire, per completarsi, contesto anche culturale, non solo sanitario. Allora, inizio con, do precedenza a Fabio. 5 minuti. Posso? No, perché Fabio ha posto una domanda, secondo me è importante, perché gli immigrati rappresentano, questo io insisto su questo anche nell'introduzione, rappresentano una fascia sociale debole, quindi entrano in concorrenza con i deboli del posto. Questo è un problema che andrebbe gestito come in una fase storica come questa, dove le disuguaglianze stanno andando, no? In crescita, è un tema sicuramente critico, è un tema che richiede assolutamente un'attenzione particolare, perché una fascia debole entra in concorrenza con, no? Infatti la politica, c'è un saggio sul tema dell'abitare di Gianni e Marina, che sono presenti qua, due architetti, che parla, no? Anche per la verità Roberta Medda anche lo dice nel testo, no? Sulle difficoltà di accesso al mercato immobiliare a Bolzano, no? E quindi in tutti questi anni la politica sul tema del, io mi ricordo, sul tema dell'accesso alla casa, sempre ha cercato di non, perché all'inizio gli immigrati, la loro domanda veniva associata al gruppo italiano, perché c'è questo equilibrio qua, e quindi ancora oggi questo tema della casa c'è un'attenzione, una sensibilità politica molto particolare. Quante case diamo agli stranieri? Quindi meglio che siano poche, perché non susciti, no? E così per il welfare, perché il welfare anche ci sono la provincia, ci sono state anche denunce presso il tribunale europeo per i diritti umani rispetto a alcune questioni di discriminazioni, sempre tra temi del welfare e le case, diciamo, delle discriminazioni. E perché per dimostrare, o meglio, per mostrare alla fascia debole del luogo, gli autoctoni, che noi siamo qui a tutelare i vostri interessi nei confronti di nuovi concorrenti. Naturalmente questo ha delle ripercussioni, perché poi non dare risposta a tutti i residenti del posto, risposte dignitose, naturalmente crea poi, no, frustrazioni, no, rabbia, rinchiudersi. Quindi questo è un tema, io naturalmente non do, io sono sociologo di strada, come dicevo, non ho particolarmente risposta, però le domande credo sono importanti per suscitare dibattito, credo, più che trovare la risposta. Poi qua sicuramente non è il posto forse idoneo. E l'altra questione è la questione della religione. Allora, intanto la maggior parte in Italia, come Bolzano, la maggioranza degli immigrati sono cristiani, ortodossi, cattolici e varie denominazioni protestanti. I musulmani rimangono meno del 50%, questo è da tenere presente. Poi noi decidiamo musulmani in base a cose? Perché noi, no, appiccichiamo queste date? In base alla provenienza del paese. Va bene, io quando sono arrivato in Italia da studente, due miei amici studenti iracheni, entrambi erano cristiani. Doc, perché il cristianesimo è nato lì, quindi non sono di invitazione, no? Che l'hanno acquisito, sono doc, no? Quindi, allora, quelli lì, naturalmente non c'è scritto da nessuna parte che sono cristiani, e come facciamo? Quindi anche lì, misurare l'identità del musulmano in base alla provenienza non è zecca sempre. È un dato, vabbè, comunque, se non è musulmano di religione, musulmano di cultura, può darsi. Però anche il musulmano, il tasso di praticità, come lo misuriamo? Il tasso di praticità, quante le persone praticano nella religione? Come andiamo a misurarlo? Quindi queste sono delle etichette che si appiccicano per legittimare un certo tipo di discorso politico. Poi chi ha detto che il foulard è un simbolo di religiosità? Io conosco delle donne musulmane che non mettono il foulard, però sono molto più praticanti di donne che mettono il foulard. Quindi ci sono tante variabili da tenere presente. Tante variabili per cui dire musulmano è un qualcosa di spendibile nel mercato della politica. Quindi questo, su questo, oltre al fatto che comunque i musulmani è una minoranza, c'è una cosa però sociologicamente importante. Oggi quando io dicevo che mancano nuovi luoghi di aggregazione che rendono le persone partecipi, allora le persone cosa fanno? Si aggregano intorno alla cosa conosciuta. E oggi se andiamo a vedere gli ortodossi, o i pentecostali, o i testimoni di Geova, o i mormoni, o tutte le varie denominazioni, gli unici luoghi che hanno è il luogo di culto. Questa è una fase storica particolare, per cui dico, noi se non prestiamo attenzione alla coesione sociale, alle dinamiche democratiche, il rischio della frantumazione comunitarista. E la religione per natura producono, sono conservatori. La religione, la sua funzione è conservatrice, è difensiva, tutela. Allora, queste sono cose su cui interrogarsi. Non so, per cui io dico a volte, si parla, ma non si dibatte profondamente le questioni. Buttiamo lì, è musulmano. Siccome nell'immaginario nostro il musulmano è brutto, poi magari le bombardiamo ogni giorno noi, no? Però, vabbè, però è così. Perché è interessante, guardate che a me capitano le riviste che parlano di turismo, no? Ma anche i programmi televisivi che parlano di turismo. Per promuovere un paese, sai, sempre la fontanella, la donna mezza nuda, no? Del hammam, Shahrazad, no? Tutte cose, no? Quel immaginario settecentesco, ottocentesco che ha colpito alla grande l'aristocrazia europea, no? Perfino l'Italia è piena di architettura degli aristocratici quando hanno cominciato a vedere la modernità, le industrializzazioni, allora hanno cominciato a trovare un rifugio dove? Nella Mille e Una Notte, non sto scherzando. L'ultimo esempio moderno della Mille e Una Notte, col sonno, sapete cos'è col sonno? Col sonno un paesino in Lombardia, non lontano da Milano, negli anni 60, c'è il mio amico Stefano che è milanese, un imprenditore italiano, milanese, ha visto che la gente ha cominciato a comprarsi il 500, 600, no? La gente comincia, e voleva imitare l'America, allora si è costruito Las Vegas, sì, a Colsonno, va bene? E se andate a vedere internet, trovate Colsonno i rimanenti di questo Colsonno, questa città tutta riintelligente, minaretti, cupola, perché poi il minaretti cupola finché si faceva, no? Vanno bene, perché guarda che l'Italia è piena di cupole e di minaretti, fatti dell'aristocrazia, imposti, sperduti magari oggi, però ci sono. Quindi le minaretti le abbiamo già conosciuti noi, come nelle nostre come pianta urbanistica. Però oggi il minaretto e la cupola sembrano qualcosa di, no? di che fa paura. Allora col sonno cosa succede? Che questo imprenditore ha avuto la licenza per costruire questo paesino di Balocchi, si dice, no? E allora i milanesi andavano su e giù, e quindi la collina franata dopo tot anni, è avvenuto col è venuto al paesino che era famoso per il porro, per la coltivazione del porro. Quindi andate giù tutto il paese con queste. Questa è l'ultima, diciamo, imitazione di Mille e Una Notte nella realtà. Per cui noi siamo imbevuti anche di Mille e Una Notte. Per cui noi abbiamo questo Oriente musulmano, un po' Mille e Una Notte, però c'è anche qualcuno con la scimitarra che sta all'angolo di, no? Della strada. Quindi, ma questo lo troverete, cioè, nei programmi televisivi che parlano di promozione turistiche, poi subito dopo c'è il notiziario magari, no? Bomba scoppiata a Kabul, no? Cioè, no? Quindi c'è questa anche, questa frattura nell'immaginario. Allora, quindi il discorso della religione va letto, no? In termini seri. Non buttate lì un'etichetta che non vuol dire nera, semplicemente perché nel nostro immaginario i musulmani sono pericolosi, quindi su questo si marcia. Allora, non so se ho risposto a Celestina in modo chiaro. Il discorso dell'eurocentrismo, giustamente lei ha fatto, lei tu hai fatto bellissima correzione, sottolineatura. Siamo imbevuti in questo eurocentrismo anche perché è comprensibile, perché è di 500 anni che noi andiamo in giro a proporre nel, no, nel bene, nel male, in maniera buona, in maniera cattiva, i nostri modelli, no? È un libro bello di Ungaretti, il diario del deserto. Ungaretti, sapete che ha avuto a che fare con l'Egitto? Forse è nato lì in Egitto. Nato in Egitto come diversi. Nato in Egitto. Quindi lui poi, tornato in Italia, da grande ha voluto tornare in Egitto e ha visto Egitto nuovo. E allora lui è tornato, come tanti, guardate, è tornato a dire, ma come? Questi parlano di liberazione, però usano le nostre terminologie. Parlano di emancipazione, però usano, no? Oggi le loro donne si mettono le scarpe come le nostre. Quindi comincia a vedere le contraddizioni, no? Quindi il mondo anche al di là del Mediterraneo si è modificato tanto. Guardate, tantissimi intellettuali dell'Ottocento andavano a cercare l'Oriente, letto sulle mille e una notte. Poi quando vanno lì, come un certo Philby, un inglese, nel periodo di come si chiama il famoso Lawrence d'Arabia, erano insieme. Uno faceva la consulenza per una famiglia hashimita che oggi governa la Giordania. Philby faceva il consulente per la famiglia saudite, no? E quindi e le facevano litigare tra di loro, quelli e loro. Philby è diventato musulmano. Fino a un certo punto ha detto: io voglio essere musulmano. Poi ha visto che i musulmani imitano l'Occidente, ha detto: che senso ha che io faccia il musulmano, no? E negli atti del convegno a San Giorgio a Venezia, gli atti del convegno in cui Philby partecipava come rappresentante dei musulmani, in cui diceva proprio questa cosa qua. Diceva: mi sono convertito all'Islam per salvaguardare un'identità, una purezza, una spiritualità, invece ho visto che i musulmani, no, sono incamminati, no, sul nostro sentiero. Quindi insomma si è deluso un pochino, per cui vuole dire, sulla storia dell'Islam mi sono permesso a dire una serie di episodi, di cose così curiose. E l'eurocentrismo, grazie a Dio, se da 500 anni governiamo il mondo, l'economia del mondo è governata secondo le nostre regole, le politiche, le azioni politiche. Infatti una volta sono stato a Bergamo, un ex presidente degli ACLI di Bergamo, in un intervento in un convegno, ha detto una cosa grandiosa. Ha detto: gli africani, come molti altri paesi del mondo, devono avere il diritto di voto per i nostri parlamenti, perché i nostri parlamenti decidono la politica, no? Anche per i loro paesi, e quindi dovrebbero avere il diritto di votare, visto che subiscono le nostre, no? Quindi l'azione politica dell'Occidente, capeggiata dagli Stati Uniti, incide sulla vita, sul costo del latte, del pane, di molti popoli. E quindi l'eurocentrismo è fortissimo, perché 500 anni di storie vuol dire benefici, vuol dire privilegi, vuol dire un passaporto che mi permette di andare in 100-150 paesi, no? Che nessuno mi controlla, tutte queste cose qua. Quanti di noi sono disponibili a rinunciarci? Dio vi benedica. Bene. Grazie a tutti per la partecipazione.